Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di gestione dell'acqua stasera. Ieri e l'altro ieri ci siamo occupati degli effetti della siccità sulle falde acquifere profonde. Questa sera ci occupiamo invece di come contrastare gli effetti delle piogge che sono sempre più intense e sempre più concentrate a causa dei cambiamenti climatici. Queste piogge intense portano spesso con sé alluvioni e smottamenti. E diciamo è facile profezia, non vorrei fare il menagramo, ma temo che andrà proprio così. Tra un mese inizierà la litania dei lamenti sul livello del dissesto idrogeologico del paese, ci ritroveremo a fare l'elenco di allagamenti, dei danni all'agricoltura e probabilmente anche a piangere qualche morto. Poi tutto finirà come sempre nel dimenticatoio fino all'alluvione successiva. È invece fondamentale fare manutenzione e intervenire in particolare sulle strutture di contenimento della furia dei fiumi e quindi soprattutto sugli argini. Ma la domanda è dove intervenire, perché è evidente che intervenire su un argine costa moltissimo. Questi argini sono frutto di secoli di lavoro degli esseri umani e delle comunità umane che vivono a fianco dei fiumi, e intervenire a tappeto è praticamente impossibile. Ebbene, l'OGS, l'Istituto Italiano di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, ha messo a punto un sistema per andare sul sicuro, per andare a identificare puntualmente gli argini a rischio. Ne parliamo con il responsabile di questa ricerca, che si chiama Roberto Francese ed è appunto un ricercatore dell'OGS. Buonasera Francese. Buonasera, un saluto a tutti quanti. Allora, perché a un certo punto un argine che sembra solidissimo, magari lì da secoli, viene giù? Viene giù magari in pochi minuti alle volte. Diciamo che le problematiche sono sostanzialmente tre. Ci sono delle problematiche legate a come è fatto il territorio in sé, cioè la superficie su cui poggia l'argine. Sì. Può essere una superficie di materiali poco permeabili e quindi che ostacolano il passaggio dell'acqua, oppure può essere una superficie fatta di materiali più sabbiosi che consentono il passaggio dell'acqua. In questo caso l'acqua trova una via facile al di sotto dell'argine, passa sotto e lo scalza, e questo è un fenomeno. Si scava un buco sotto praticamente. Sì, si chiama sifonamento, è un fenomeno che è noto, è un fenomeno che si vede. Altri fenomeni invece sono legati un po' alla struttura interna dell'argine, cioè come è fatto l'argine. Come ha detto lei prima molto bene, sono strutture che hanno una vita molto lunga, pertanto si è persa memoria di come sono fatte. Certo. Quello che c'era all'intorno è stato ammucchiato per fare l'argine. Quindi all'interno dell'argine cosa succede? Ci possono essere delle zone molto buone di materiali poco permeabili che quindi ostacolano il passaggio dell'acqua. Come l'argilla per esempio. Come l'argilla. E delle zone non molto buone, fatte di materiali che invece facilitano il passaggio dell'acqua, che sono materiali prevalentemente sabbiosi. Certo. Quindi sotto il carico della piena, nel caso in cui il materiale sia sabbioso, questo può consentire un primo passaggio di acqua con un fenomeno di svuotamento del corpo arginale. Certo. Che perde la sua resistenza all'acqua. È come versare un secchio d'acqua su un castello di sabbia, questo all'inizio l'assorbe e poi crolla. E poi c'è un altro problema. Un altro problema che si è aggiunto, è una cosa abbastanza recente, una cosa degli ultimi 10-15 anni, è la presenza di colonie di animali che sono prevalentemente le nutrie, i tassi e recentemente sembra anche le volpi. Ah. Che scavano le loro tane all'interno degli argini. Quindi riducono a dei groviera questi argini. Scavano dei fori, esatto, dei fori che molto spesso sono passanti, cioè passano dal lato interno all'esterno, quindi facilita il passaggio dell'acqua e in questo caso possono determinare il collasso in un modo molto più rapido che non con il meccanismo della filtrazione attraverso la lente di sabbia, cioè una cosa molto veloce. Ecco, come si interviene quando si scopre che l'argine è indebolito? Così lo spieghiamo. Se si trova che l'indebolimento occupa prevalentemente la parte superiore dell'argine, è sufficiente scoperchiarne una parte e rifarlo. Se l'indebolimento è in profondità, normalmente si opera con dei diaframmi. Dei diaframmi sono dei tagli verticali, la cui direzione è parallela all'argine, che solitamente si fanno sul lato esterno, sul lato della campagna. Sì. E che vengono riempiti con delle miscele solitamente di cemento e bentonite, che sono materiali poco impermeabili e quindi impediscono totalmente il passaggio dell'acqua. È una sorta di guaina impermeabile che taglia l'argine e lo taglia in profondità, molto al di sotto della base solitamente. Ecco, questa operazione costa vari milioni a chilometro, 5-10, insomma. Costosa, ecco. Certo. Ecco perché è importante intervenire puntualmente, e qui arriva la vostra metodologia. Come funziona? La tecnica che noi abbiamo messo a punto è una tecnica che si basa su due metodologie di indagine che sono abbastanza consolidate dal punto di vista scientifico. Una è una metodologia che si basa sull'induzione elettromagnetica. L'induzione elettromagnetica è un sistema che ci consente di capire alle diverse profondità che tipo di materiale costituisce l'argine. Noi andiamo a misurare sostanzialmente una resistenza al passaggio elettrica di correnti. Ok. E lì capite se c'è sabbia, argilla o qualcos'altro. Esattamente, insomma, noi riusciamo a capire se c'è sabbia, se c'è argilla o se ci sono materiali intermedi tra la sabbia e l'argilla, e così abbiamo un'idea di come è fatto il corpo dell'argine. L'altra tecnica? La seconda tecnica, che è una tecnica che è molto risolutiva, si chiama tecnica radar, che manda delle onde elettromagnetiche all'interno del corpo arginale. Queste onde elettromagnetiche, dove trovano delle cavità, si riflettono e tornano verso la superficie. Diciamo che i nostri ascoltatori probabilmente possono avere qualche familiarità con l'ecografia. È un meccanismo simile, anche se usa onde molto simile. Tipo diverso. Esatto. E quando voi avete sospetto, fate un'indagine ulteriore che consente proprio di affinare. Adesso non abbiamo il tempo di parlare di questa opportunità, ma è evidente che questa tecnica consentirebbe di risparmiare miliardi probabilmente al paese se fosse applicata estensivamente sul territorio, anche perché quando cede un argine può provocare solo un cedimento decine, centinaia di milioni di danni. C'è un progetto che lei coordina e che insomma ha già un bel po' di lavoro alle spalle. Noi abbiamo fatto fino adesso circa un centinaio di chilometri di opere di arginatura tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e il vantaggio grosso di questa tecnica è una tecnica che opera in modo dinamico, nel senso non bisogna stare lì fermi a fare le misure, ma ci si sposta con i sensori. Questo consente di avere delle produzioni che possono essere dell'ordine delle decine di chilometri al giorno. Senta, ma se un amministratore pubblico vuole adottare questa tecnica, può chiamarvi e dire controllatemi il tal fiume? Ah, tranquillamente sì, è quello che ogni tanto succede, insomma. Ecco, nel senso che... speriamo che succeda un po' più che ogni tanto. Grazie Roberto Francese. Grazie a lei. È tutto, a domani.